Buonasera. Sì, potete sedervi. Va bene. Gesù sta tornando. È giusto? Abbiamo ascoltato una volta un pastore. È stato chiesto: pastore, ho letto nella Bibbia che due saranno in un campo a lavorare, uno sarà preso, l'altro lasciato. Due dormiranno insieme, uno sarà preso, l'altro lasciato. Pastore, per favore, dimmi chi sarà preso, io o mia moglie? Vabbè, non aveva capito bene. Okay. Siamo in conclusione di un progetto che sto in qualche modo condividendo con voi da alcuni mesi, che è il Padre Nostro. È quasi quasi finito. Questa è una parte che stavo aspettando con ansia, perché si parla di cibo. Ed è Matteo 6:11 e dice: dacci oggi il nostro pane quotidiano. E poi c'è un altro verso che Gesù cita in Luca e dice, Luca 11:11, e chi è quel padre fra di voi che se il figlio gli chiede un pane gli dia una pietra, o se gli chiede un pesce gli dia invece un serpente? Io sono una persona molto prudente, è un modo gentile per dire che non sono particolarmente coraggioso, ok? A volte non è tutta questa intraprendenza, però diciamo da quando mi sono sposato ho preso responsabilità in questo, perché ho visto che mia moglie a volte ha delle fobie, insomma. Io sono l'uomo di casa che deve distruggere tutti gli insetti, le lumache, le falene, le lucertole. Io sono colui che difende casa mia da ogni possibile essere, animale, bestia o esistente che vuole invadere il nostro territorio. Però vado anche un po' oltre in questo, non voglio sminuirmi del tutto, però capita a volte che ci sono situazioni molto difficili, anche di panico, non so, magari veniamo per strada sotto la pioggia, mia moglie diventa terrorizzata, inizia ad urlare, fermati, dove stai andando, torniamo indietro, io non credo per coraggio, più per incoscienza, vado avanti, non mi fermo, vedo tutte le macchine ferme, ma io non mi fermo perché so che devo arrivare dove devo andare. Quindi c'è questo lato un po', come dire, incosciente, direi, la parte di coraggio è in questa. Però se c'è una cosa di cui ho veramente terrore e davvero tutto il mio coraggio viene meno, è quando si parla di serpenti. Io odio i serpenti. Qualcuno è d'accordo con me? Sì? Qualcuno, sì. Ok, io sono stato la scorsa settimana in viaggio, in vacanza, per celebrare il 10° anno di anniversario, quindi 10 anni in cui ho combattuto per la salvezza della mia famiglia, da tutti gli insetti e gli animali, e ho trovato un posto bellissimo in Marrakech che vi consiglio di vedere. È una piazza straordinaria che si chiama Jannah Fna, che è una piazza enorme, veramente grandissima, ed è piena di bancarelle, posti dove la gente mangia per strada, o c'è la carne che viene arrostita in continuazione. Ogni sera migliaia di persone si riversano in questa piazza e festeggiano, ci sono persone che distribuiscono succhi o appunto cibo, venditori, accattoni, ladri, di tutto. Ma in questa piazza ci sono questi, gli incantatori di serpenti. Ok, sono lì, ce ne sono tanti, per strada, tantissimi. Appena io ho capito che ci sono incantatori di serpenti, il mio passaggio nella piazza è stato perimetrale. Non è mai stato attraversato in nessun modo, perché veramente io ho terrore dei serpenti. E un giorno eravamo lì per una nostra passeggiata, e mi sono accorto che mentre stavamo per uscire da una strada abbiamo incrociato tra le centinaia di persone che venivano incontro a noi una persona che aveva qualcosa in mano e che era abbastanza lunga e non regolare ed era bianco e ho capito che qualcosa ha detto nel mio cervello: quell'uomo ha in mano un serpente e te lo sta porgendo. E lì qualcosa è successo dentro di me, quasi una scarica elettrica attraversato il mio corpo, è arrivata alla punta dei piedi e anche le mie mani hanno iniziato a tremare, si chiama paura questa, e non so se c'è un campionato di salto indietro, io l'ho vinto, perché ho fatto un salto, probabilmente il salto più strano della mia vita. Ha iniziato ad urlare come una ragazzina, veramente, perché ero terrorizzato da questa persona che cercava di porgermi un serpente. Quindi io, in realtà, non so neanche più dove fosse mia moglie a quel punto. Quindi ho solo capito che quest'uomo stava cercando di darmi qualcosa. E quando ho ripreso un po' idea di quello che stava succedendo ed ero molto distante da questa persona, mia moglie era accanto a me e mi ha detto... Era un serpente di legno. La vita che noi abbiamo è piena di sorprese e a volte non capiamo quello che ci arriva addosso. Non abbiamo la più pallida idea a volte di comprendere quello che ci viene incontro, non sappiamo la vita cosa vuole offrirci, a volte sono sorprese brutte o sorprese belle, un po' come direbbe Forrest Gump. La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai cosa ti capita. Ma in realtà, come credenti, abbiamo una cosa in più da dire a questa verità, che Dio ha per noi il meglio, sempre, sempre. E il meglio di Dio per noi a volte può essere non coincidere per forza con quello che noi ci aspettiamo, ma Dio è il meglio per noi. E quando noi leggiamo, lo possiamo rivedere insieme, Matteo 6,11, e dice, dacci oggi il nostro pane quotidiano, sappiamo che Dio ha qualcosa da darci. E questo è un pane molto, molto speciale. Forse è la metafora più usata in assoluto nella Bibbia riguardo appunto la figura del pane. Però andiamo con ordine, perché leggendo questo semplice verso, che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 parole, ci sono grandissime verità. A me piace imparare da quello che leggo e mi ha stupito moltissimo leggere, proprio fermarmi solo già nella parola dacci. E io ho capito una cosa, forse la più semplice del mondo, però è così importante, che noi a Dio possiamo chiedere. Noi a Dio possiamo chiedere. Se vedete la struttura di questa preghiera del Padre nostro, e c'è l'invocazione al Padre, quindi una lode verso Dio, la consapevolezza di abbracciare la sua volontà e il suo regno, quindi il suo scopo, tutta la gloria è indirizzata verso il nostro Dio e il nostro Signore, poi arriva la prima invocazione. La prima richiesta che Gesù ci mette in questa preghiera, è proprio la prima richiesta in assoluto, è dacci oggi il nostro pane quotidiano. E questo dacci a me, sinceramente, suonava molto maleducato. Cioè, suona maleducato, perché è come dire... Lui, proprio Gesù dice, quando pregate, pregate così, Padre nostro che sei nei cieli, eccetera, eccetera, dacci oggi il nostro pane quotidiano. E lì io sinceramente ho detto, secondo me c'è qualche problema nella traduzione, voglio andare a vedere bene bene, Gianluca, sono andato a studiare un po' il termine greco, ed è un imperativo, è veramente un imperativo. C'è proprio la richiesta perentoria di dire dacci, dammi. E io ho detto, vabbè, ma io cosa posso pretendere da Dio? Dio, devo veramente chiedere a Dio qualcosa, qualche diritto verso Dio? In realtà no, non ne ho affatto. E io sono convinto che possiamo arrivare a questa verità con un semplice esempio. Sapete, quando molti di voi sono genitori, vero? Io sono invece zio di molti nipoti. Ed è fantastico vedere che se anche il mio nipotino piccolino, Gioele, no? Il figlio di Enza e Saverio, lui per caso a un certo punto sta con noi o sta giocando con i suoi amichetti o con noi che siamo i suoi zii o qualunque conoscente sia intorno a lui, se lui ha fame, a me non chiede niente, ai suoi amichetti non chiede niente, ma va da sua madre e da suo padre. E quindi se c'è una richiesta che noi possiamo fare ed esprime totalmente il fatto che noi siamo dipendenti da Dio, che Dio è nostro Padre ed è proclamato già dall'inizio di questa preghiera, Dio è nostro Padre, tutta la nostra vita dipende da Lui. Un bambino appena nato dipende per il suo nutrimento dai suoi genitori. Sono i suoi genitori che gli danno da mangiare, che provvedono per lui il cibo. E se quel bambino, qualunque bambino, ha fame, non lo chiederà nessun altro se non ai suoi genitori. È vero? È così importante sapere che la nostra fonte di sopravvivenza, la nostra fonte di sopravvivenza è da Dio. E in Lui noi possiamo solamente pensare di ricevere. E questo dacci non è un imperativo assoluto nel dire «Ehi, io pretendo, ma solo tu mi puoi dare quello di cui ho bisogno. Dammi oggi il mio pane, perché solo tu, Signore, puoi darmi quello che mi serve». Da questa preghiera io capisco, da queste poche parole, che c'è un'altra importante verità, che è appunto il nostro dipendere. Il nostro dipendere è una cosa difficile per noi al giorno d'oggi da scoprire, ma anche proprio da ammettere a noi stessi. Noi viviamo in una società in cui siamo tutti pienamente autonomi. Sfoderiamo con molta gioia anche il fatto che siamo autonomi, che non dobbiamo dipendere da nessuno, che possiamo cavarcela da soli. È proprio quello che intorno a noi un po' ha creato questo clima di indipendenza. Mi seguite? Siete con me? Sì. Quello che intendo dire è che spesso anche per le semplici cose, come si cucina qualcosa, lo vado a cercare su YouTube, subito. Ok, come si cucina l'anatra, l'arancia mandorlata? Chi l'ha mai fatta? Non lo so. Però se volete, su YouTube c'è la ricetta. E puoi imparare da questo. Oppure se vuoi costruire un giardino verticale con le cose di legno, i pallet, eccetera, vai su Pinterest, no? Su Pinterest trovi tutto, no? Capisci come si costruiscono le cose. Poi in realtà, poi se posso dire la verità, quando poi le vai a fare veramente, le cose sono un po' diverse, no? Cioè tu vedi la foto, poi vedi la cosa tua e fa schifo. Quindi un po' tutta questa cosa che di fatto è divertente, no? Fa un po' ridere, però in realtà è un po' un cercare e soddisfare il nostro orgoglio. Dai, perché non vogliamo chiedere, non vogliamo dipendere da altri. Io non voglio sminuire per quelli che si mettono a fare, anche io cerco un sacco di cose su internet, sono felicissimo che voi possiate farlo, però è solo un esempio per dire che probabilmente la nostra società ci ha costruiti in un modo, siamo influenzati in un modo che noi vogliamo essere indipendenti, non vogliamo dipendere. E se poi questa cosa la portiamo anche in termini spirituali, è un grande pericolo, ma proprio grosso. Perché anche quando noi abbiamo bisogno, e sinceramente io spero che finiamo questa serata con un solo concetto, che abbiamo bisogno di Dio. Sempre. E non posso dire quando abbiamo bisogno di Dio andiamo da Lui, perché abbiamo sempre bisogno. Però gran parte della nostra vita spirituale la passiamo a risolvercela un po' da soli. Ma dalla cosa più banale, cioè se noi chiaramente possiamo avere anche una semplice influenza, non c'è problema. La farmacia di turno. È chiaro, loro hanno tutto quello che ci serve per l'influenza, raffreddore, tosse, ti danno anche quelle cose in bundle, che prendi una, ti guarisce tutto. Anche se succede che abbiamo un problema anche di salute grave o comunque un incidente o qualunque cosa, c'è l'assicurazione, no? C'è l'assicurazione, provvede ai nostri bisogni. La nostra società occidentale ci ha abituato moltissimo a questo concetto di indipendenza e anche indipendenza un po' che influenza la nostra vita spirituale. Molto, molto pericoloso questo. Molto pericoloso. Ho visto persone che non avevano la benché minima possibilità di acquistare medicine, persone che hanno anche affrontato quasi il limite della morte, e non sono a morte, perché hanno pregato e Gesù li ha guarite. E io credo che possiamo vivere anche qui con molta umiltà, alzare le mani e dire: io non ce la faccio, voglio dipendere da te. Questa è una grande, grande azione di umiltà, ma di umiltà non nei confronti degli altri, nei confronti di noi stessi, nei confronti di Dio, ammettere: io non ce la faccio, ho bisogno di dipendere da te. Come un bambino, come abbiamo detto prima. Sapete, c'è una storia che vi voglio raccontare, l'ho letta questi giorni, mi ha molto colpito. Non so se molti di voi ricordano o hanno studiato che dopo la guerra mondiale ci sono stati innumerevoli conflitti. Forse molti di più ricordano il Vietnam, perché poi è stato spesso documentato da film. Però c'è un conflitto molto, molto importante, che è stata la guerra di Corea. Qualcuno ne ha mai sentito parlare? La guerra di Corea è stato un disastro e si è risolta solo nel 1953 con un armistizio, dividendo questa nazione in due. In questo conflitto chi ha pagato di più, e sono morte 3 milioni di persone, 3 milioni di persone, le vittime più grandi ovviamente sono state i bambini, le famiglie. Molti bambini sopravvissuti sono rimasti orfani. E questo ha creato strutture, molti aiuti umanitari sono andati in Corea e hanno cercato di riparare e aiutare quello che era da salvare. Hanno costruito orfanotrofi, hanno creato strutture che hanno aiutato moltissimo questi bambini a riprendere una vita normale. La questione molto breve è questa, che molti bambini che venivano inseriti in queste strutture venivano tutelate da dei volontari, dagli operatori umanitari. Questi operatori umanitari molto spesso si accorgevano di un fatto stranissimo: questi bambini avevano cibo, ricevevano cibo 3 volte al giorno, ma per tutta la durata del giorno la loro ossessione, la loro paura, la loro più grande fobia era: avremo cibo anche domani. Avremo cibo anche domani. E mi ha così colpito anche la soluzione che un volontario ha avuto per risolvere questa questione. Perché ogni notte andava presso i letti di ogni bambino e metteva nelle loro mani un pezzo di pane. E prima di addormentarsi, loro avevano la sicurezza che domani ci sarebbe stato ancora cibo. Questa storia mi ha così colpito e commosso, perché questo cibo non serviva chiaramente per mangiare, no? Era una coperta di sicurezza, no? Un conforto, il fatto di sapere che qualcuno avrebbe provveduto per loro, che anche se noi possiamo mangiare 3 volte al giorno e non è sicuro che domani lo avremo, no, con quello erano sicuri di svegliarsi anche il giorno dopo e dire: ci sarà cibo. Ci sarà cibo. Ora io voglio che tu pensi un attimo, perché io ho pensato molto a questo. Togli le tue certezze riguardo a quello che tu pensi sia il meglio per te. Per favore, non avere paura di sapere che cosa succederà domani. La Bibbia ce lo grida dalla prima all'ultima pagina della Bibbia, perché Dio provvederà per te. Dio provvederà per te. Sì? Puoi dire un amen con me? Amen. Dio provvederà per te e per me. Dio ci fa vivere in una certezza dove la nostra sicurezza non è quello che riusciamo a capire e a vedere, ma è Lui. È Lui. E Lui è stato la sicurezza e la salvezza per Noè. Noè ha avuto un'arca, ha avuto la possibilità di salvarsi, è stato un pesce a salvare Giona. Dio ha provveduto in una maniera pazzesca, nella maniera più impensabile. Conoscete tutti benissimo queste storie, perché le avete forse ascoltate anche da bambini. Però voglio dire questo, e non voglio neanche lasciare dei dubbi su questo. Dio provvede, ma la sua provvidenza ha a che fare con la nostra azione attiva. Ok? Io posso leggere in tutto questo, anche in ogni storia della Bibbia, che nessuno ha aspettato sul divano che Dio intervenisse. È molto importante questo. Perché anche il popolo di Israele, conoscete la storia, aveva bisogno di essere cibato e quindi si trovava nel deserto e c'era la manna che veniva donata dal cielo. Fantastico, stiamo parlando di cose pazzesche. Cibo che scende dal cielo. C'era anche uno sforzo da fare, uscire dalla tenda, raccogliere e prendere. Ok? Quindi la provvidenza di Dio si accende e si attiva quando tu scegli di dipendere da Dio. Lo ripeto, la provvidenza di Dio si attiva quando tu scegli di dipendere da Dio. E questa dipendenza è incondizionata. È incondizionata perché non puoi mettere un compromesso qui. O dipendi o non dipendi. È un po' come i bambini, o sei figlio o non sei figlio. No, non puoi oggi essere autonomo, domani totalmente dipendere da Dio e da quello che Lui ti può dare. È una questione di relazione. Ha molto a che fare con questo. Quando leggiamo quotidiano, no? Pane quotidiano, ha a che fare con qualcosa che succede ogni giorno. Ha a che fare con la mia relazione con Dio, con la tua. E se io posso capire un'ultima cosa da questa storia è che tutti noi abbiamo bisogno. Altrimenti Gesù non avrebbe iniziato la prima richiesta in assoluto in questa preghiera con dire dammi del pane, dacci il pane che ci serve oggi. Dammi quello che mi serve oggi. E noi viviamo di bisogni, vero? La società, no, abbiamo anche detto, ci riempie di bisogni. E noi viviamo col bisogno quasi imposti, no? Perché per cultura, no? Quindi diventiamo grandi, abbiamo bisogno di studiare per prendere il titolo di studio, dobbiamo scegliere un partner per la nostra vita, dobbiamo scegliere il lavoro migliore, dobbiamo anche avere una casa più grande, non basta sempre quella che abbiamo, serve qualcosa di più, dobbiamo avere una macchina più grande. Io voglio dire una cosa, tutti questi bisogni sono belli e buoni, va bene? Nessuno si deve sentire in colpa per questi, perché Dio ci ha creati con dei bisogni. Tranquilli, rilassiamoci, tutti quanti abbiamo dei bisogni e noi abbiamo dei bisogni che Dio stesso ha pensato per noi. Ma la cosa importante è che quello che noi possiamo vivere in termini di bisogni può essere una ricerca pazzesca di insoddisfazione. E questo può diventare dannoso, questo può diventare non dannoso, pericolosissimo. Perché se la tua vita è indirizzata a cercare di soddisfare tutti i bisogni che anche tu ti imponi, o la società ti impone, la tua famiglia ti impone, allora probabilmente stai sbagliando ricerca. Perché quello che tu hai veramente bisogno ha solo un nome. E non tolgo gli indugi perché, insomma, lo sapete già, Gesù ha detto di se stesso in Giovanni 6,48 «Io sono il pane della vita». Colpo di teatro, colpo di scena. No, no, lo sapevamo, no? Le sappiamo queste cose, ma poi rendiamole pratiche, no? Rendiamole vicino a quello che è la nostra vita. Tutto quello che noi possiamo cercare, ricercare e volere e di cui abbiamo bisogno vanno tutte cose, sono tutte cose buone. Però in realtà Dio ha pensato più in grande per te. Ha pensato più in grande. Non voleva assolutamente che tu ti accontentassi, che tu avessi questa idea, ecco, questo è quello che io ti posso dare. Ok? No, Dio ha detto, io ti do di più, ti do Gesù. Io sono il pane della vita. Ok? Questa verità è così importante che ci aiuta a riclassificare tutti i nostri bisogni. Io ho provato, ci ho provato questi giorni, è stato pazzesco, perché anche tutte le volte che io pensavo, ho bisogno di, ci mettevo l'etichetta Gesù, io ho bisogno di quella cosa lì, Gesù. Sei come un adesivo ideale. È fantastico perché realmente quando io ho capito e realizzo totalmente in maniera pratica e quotidiana che ciascuno dei bisogni di cui io devo vivere hanno la piena soddisfazione in Gesù, acquista tutto un altro significato. Dalla cosa più banale alla cosa più grande e difficile da affrontare. Gesù è il nostro bene primario. Quando Gesù ha detto io sono il pane della vita, ha detto chiaramente che la prima cosa necessaria per vivere è il pane, e io sono l'esempio di questo. Proprio ha detto, quando pensi a me, pensi al pane, così capisci, perché tu hai bisogno di me. Tu hai bisogno di me. Hai bisogno di me per vivere pienamente la tua vita lontana da una cosa innanzitutto. Abbiamo detto lontano dall'indipendenza, lontana dalla ricerca dei bisogni, ma innanzitutto abbiamo bisogno di Gesù per vivere lontani dalla fame. Io ho passato la mia vita, molto tempo della mia vita, affamato. E cercare quello di cui avevo bisogno era il mio bisogno primario, la mia preoccupazione di ogni giorno, dire otterrò questo e sarò soddisfatto, allora la mia giornata sarà ok. E ho scoperto che niente di quello che io pensavo, anche quando l'avevo ottenuto, poteva soddisfarmi. Ho dovuto comprendere veramente che avevo bisogno di Gesù. Penso che gran parte anche della mia vita cristiana, lo ammetto, passa in un periodo di fame. E voglio che possiamo riflettere oggi su questo, perché tutte le volte che noi ci avviciniamo anche a delle cose che danno fastidio alla nostra vita spirituale, e parlo di cose anche forse banali come rancore, come senso di giustizia o semplicemente sminuirci, toglierci valore, noi ci stiamo affamando, stiamo rinunciando a ricevere Gesù anche quel giorno, a morire di fame, a stare digiuni proprio. Sapete, voglio essere ancora più chiaro, perché quando noi prendiamo queste cose, ci cibiamo di queste cose, noi non mangiamo pane di vita, noi non mangiamo vita, non mangiamo Gesù, ma mangiamo morte. Perché ti vuoi nutrire di morte? Quando Gesù ha preparato per te del pane buono oggi da mangiare, Gesù è il tuo pane oggi, per tutti i tuoi bisogni, per tutti i tuoi bisogni. Ha pensato perfettamente la tua vita e ha pensato che Lui è la piena soddisfazione di quella vita. Non c'è un altro modo. Voglio andare ancora più giù, ancora più in profondità, e voglio dirti anche quest'altra verità che ha parlato molto al mio cuore. Gesù non è un'opzione, ma è la tua unica possibilità di vivere. Non c'è possibilità di sopravvivere, perché senza nutrimento sei destinato a morire, ti cibi di morte e muori. Possiamo vivere nell'idea che la nostra posizione oggi può cambiare rispetto a tante cose. Sono cose pratiche, molto semplici, ma può cambiare. Puoi scegliere di smetterla di toglierti valore, ok? Già questa è una cosa importante. Quando pensi che quando vuoi capire quanto costa una cosa, chiedi quanto valore ha, chiedi quanti soldi devi pagare per averla, vero? Ok, pensa all'anello di fidanzamento della persona che conosci. Quando vuoi sapere quanto vale quell'anello, gli chiedi quanto costa. E quando io penso a me, o penso a ciascuno di voi, il prezzo pagato per te, per me, è la vita di Gesù. E tu c'hai un grandissimo valore, hai un grandissimo valore. Se Dio ha pensato che è Lui la tua piena soddisfazione, perché ti devi togliere questo valore? Lui è colui che ti dà tutto, tutto. Perché non rinunciamo a vivere nel dolore? È una scusa, è più facile che affrontare i nostri fantasmi, ammettere i nostri errori e dire devo cambiare, devo cambiare. E possiamo, sì, perché Gesù ha fatto già tutto. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, per me. Possiamo scegliere di smetterla di essere indipendenti. Questo sarebbe già un grosso passo. Possiamo scegliere di dipendere da Lui e chiedere a Lui quello di cui abbiamo bisogno. Possiamo andare a Lui. Lui è nostro Padre. Lui è nostro Padre. Possiamo alzarci in piedi. Come Chiesa siamo in direzione di grandi passi verso cose grandi, molto grandi. Tutto quello che noi stiamo andando a fare, potete anche guardarvi intorno, ci sono cose, lavori in corso, cose che stiamo cercando di migliorare, che stiamo ristrutturando, cambiando, ma più luci ho un proiettore, oggi si è anche rotto. Sono contento che si è rotto, perché a volte ci fa capire che possiamo farne a meno, perché noi non abbiamo bisogno di questo, ma abbiamo bisogno di Gesù per celebrarlo qui. Questa è solo cornice ed è bellissima, bellissima, importante, eccellente, ma possiamo anche non averla. Noi celebriamo Gesù. Se prendiamo un'identità di totale dipendenza e di totale appartenenza verso Cristo, verso Gesù, questa Chiesa ha un potenziale enorme che va oltre tutto quello che noi possiamo diventare o pensare di diventare, non in cosa di forma, ma in cosa di sostanza, perché siamo in un'identità precisa che è nel bisogno di Gesù. Vuoi con me dire insieme a me: io ho bisogno di Gesù stasera? Sì? Possiamo chiudere i nostri occhi. Signore, io so che molti di noi sono affamati. Sento forte nel mio cuore, nell'idea che ci sono persone che sono alla ricerca di te, che hanno ancora bisogno di coprire delle aree. E io ti prego, Signore, che tu con piena autorità puoi rivelarti in questo momento, non attraverso quello che io posso dire o attraverso la mia preghiera, ma per la rivelazione dello Spirito Santo, di dire: io sono la risposta al tuo bisogno oggi. E niente mi potrà essere derubato. Io voglio smettere di andare in giro affamato. Io voglio smettere di essere bloccato dal peccato, di farmi affamare dai bisogni, ma invece ricevere te che sei la mia gioia, che sei la mia completezza, che sei tutta la mia soddisfazione, che sei tutto quello di cui ho bisogno. E quando tutto mi verrà a mancare, quando le cose non le capirò più o quando le cose non suoneranno più bene, tu sei quello che rimane, sei colui che è fondamento della mia vita, sei colui che non mi verrà mai tolto, perché tu sei Gesù, tu sei la salvezza per me, tu sei colui che Dio ha pensato per la mia completa salvezza e redenzione. E io non voglio rinunciare più a te, non voglio più pensare che passerò un'altra giornata senza di te, senza sapere che tu sei la mia completa e totale soddisfazione. Tu sei colui che mi sfama, tu sei colui che mi riempie, tu sei colui che può darmi tutto, e nessun altro potrà prendere questo posto, perché tu sei la completezza di ogni cosa, perché tu sei tutto, Gesù. Amen.